Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Quelle due figlie del sor Matteo non erano per me e nemmeno per Nuto. Erano ricche, troppo belle, alte. Loro compagnia erano ufficiali, signori, geometri, giovanotti cresciuti. La sera tra noi, tra l'Emilia, Cirino, la Serafina, c'era sempre qualcuno che sapeva con chi parlava adesso Silvia, a chi andavano le lettere che Irene scriveva, chi le aveva accompagnate la sera prima. E si diceva che la matrigna non voleva sposarle, non voleva che andassero via portandosi le cascine, cercava di far grossa la dote per la sua santina. «Sì, sì, valle a tenere», diceva il massaro, «due ragazze così». Io stavo zitto e certi giorni d'estate, seduto a Belbo, pensavo a Silvia. A Irene, così bionda, non osavo pensare. Ma un giorno che Irene era venuta a far giocare Santina nella sabbia e non c'era nessuno, le vidi correre e fermarsi all'acqua. Stavo nascosto dietro un sambuco. La Santina gridava mostrando qualcosa sull'altra riva. E allora Irene aveva posato il libro, s'era chinata, tolta le scarpe e le calze e così bionda, con le gambe bianche, sollevandosi la gonna al ginocchio, era entrata nell'acqua. Traversò adagio, toccando prima col piede. Poi, gridando a Santina di non muoversi, aveva raccolto dei fiori gialli. Me li ricordo come se fosse ieri. Qualche anno dopo, a Genova, dove ero soldato, avevo trovato una ragazza che somigliava a Silvia, bruna come lei, più grassottella e furba, con gli anni che Irene e Silvia avevano quando era entrato alla mora. Io facevo l'attendente del mio colonnello che aveva una villetta sul mare e mi aveva messo a tenergli il giardino. Pulivo il giardino, accendevo le stufe, scaldavo l'acqua del bagno, giravo in cucina. Teresa era la cameriera e mi canzonava per le parole che dicevo. Proprio per questo avevo fatto l'attendente, per non avere sempre intorno i sergenti che mi pigliassero in giro quando parlavo. Io la guardavo, dritto in faccia, ho sempre fatto così, non rispondevo e la guardavo. Ma stavo attento a quel che diceva la gente, parlavo poco e tutti i giorni imparavo qualcosa. Teresa rideva e mi chiedeva se non avevo una ragazza che mi lavasse le camicie. «Non a Genova», dissi. Allora voleva sapere se quando andavo in licenza al paese mi portavo il fagotto. «Io non ci torno al paese», dissi. «Voglio stare qui, a Genova». «E la ragazza?» «Che cosa importa?» dissi. «Ce ne sono anche a Genova». Lei rideva e voleva sapere chi, per esempio. Allora ridevo io e le dicevo «Non si sa». Quando divenne la mia ragazza e di notte salivo a trovarla nella sua cuccia e facevamo l'amore, lei mi chiedeva sempre che cosa volevo fare a Genova senza un mestiere e perché non volevo tornare a casa. Lo diceva metà per ridere e metà sul serio. «Perché qui ci sei tu», potevo dirle, ma era inutile. Stavamo già abbracciati nel letto. Oppure dirle che anche Genova non era abbastanza, che a Genova c'era stato anche Nuto, ci venivano tutti. Di Genova ero già stufo, volevo andare più lontano. Ma se le avessi detto questo, lei si sarebbe arrabbiata, mi avrebbe prese le mani e cominciato a maledire che ero anch'io come gli altri. Eppure gli altri, le avevo spiegato, si fermano a Genova volentieri, ci vengono apposta. Io un mestiere ce l'ho, ma a Genova nessuno lo vuole. Bisogna che vada in un posto che il mio mestiere mi renda, ma che sia lontano, che nessuno del mio paese ci sia mai stato. Teresa sapeva che ero figlio bastardo e mi chiedeva sempre perché non facevo ricerche, se non ero curioso di conoscere almeno mia madre. Magari, lei mi diceva, è il tuo sangue che è così. Sei figlio di zingari, hai peli ricci. L'Emilia, che mi aveva messo il nome di Anguilla, diceva sempre che dovevo essere figlio di un saltimbanco e di una capra dell'Alta Langa. Io dicevo ridendo che ero figlio di un prete. E Nuto già allora mi aveva chiesto «Perché dici questo?» «Perché un pelandrone», aveva detto l'Emilia. Allora Nuto si era messo a gridare che nessuno nasce pelandrone, né cattivo, né delinquente. La gente nasce tutta uguale e sono solamente gli altri che, trattandoti male, ti guastano il sangue. «Prendi Ganola», io ribattevo. «È un insensato, nato a Locco». «Insensato non vuol dire cattivo», diceva Nuto. «Sono gli ignoranti che gridandogli dietro lo fanno arrabbiare». Io a queste cose ci pensavo soltanto quando avevo in braccio una donna. Qualche anno dopo, stavo già in America, mi accorsi che per me quella gente era tutta bastarda. A Fresno, dove vivevo, portai a letto molte donne, con una fui quasi sposato, e mai che capissi dove avessero padre e madre e la loro terra. Vivevano sole, chi nelle fabbriche delle conserve, chi in ufficio. Roseanne era una maestra che era venuta da chissà dove, da uno stato del grano, con una lettera per un giornale del cinema, e non volle mai raccontarmi che vita avesse fatto sulla costa. Diceva soltanto che era stata dura, a hell of a time. Gliene'era rimasta una voce un po' rauca, di testa. È vero che c'erano famiglie su famiglie, e specie sulla collina, nelle case nuove, davanti alle tenute e alle fabbriche della frutta, le sere d'estate si sentiva baccano e odor di vigna e di fichi nell'aria, e bande di ragazzi e di bambine correvano nelle viuzze e sotto i viali. Ma quella gente erano armeni, messicani, italiani, sembravano sempre arrivati allora, lavoravano la terra allo stesso modo che in città gli spazzini puliscono i marciapiedi, e dormivano, si divertivano, in città. Di dove uno venisse, chi fosse suo padre o suo nonno, non succedeva mai di chiederlo a nessuno. E di ragazze di campagna non ce n'erano. Anche quelle dell'Alta Valle non sapevano mica cos'era una capra, una riva. Correvano in macchina, in bicicletta, in treno, a lavorare come quelle degli uffici. Facevano tutto a squadre, in città. Anche i carri allegorici della festa dell'uva. Nei mesi che Roseanne fu la mia ragazza, capii che era proprio bastarda, che le gambe che stendeva sul letto erano tutta la sua forza, che poteva avere i suoi vecchi nello stato del grano chissà dove, ma per lei una sola cosa contava: decidermi a tornare con lei sulla costa e aprire un locale italiano con le pergole d'uva, a fancy place, you know, e lì cogliere l'occasione che qualcuno la vedesse e le facesse una foto da stampare poi su un giornale a colori. Only give me a break, baby. Era pronta a farsi fotografare anche nuda, anche con le gambe larghe sulla scala dei pompieri, pur di farsi conoscere. Come si fosse messa in mente che io potevo servirle, non so. Quando le chiedevo perché veniva a letto con me, rideva e diceva che dopo tutto ero un uomo. Put it the other way round, you come with me because I'm a girl. E non era una stupida, sapeva quel che voleva. Solamente voleva delle cose impossibili. Non toccava una goccia di liquore. Your looks, you know, are your only free advertising agent. E fu lei che, quando abolirono la legge, mi consigliò di fabbricare il Prohibition Time Gin, il liquore del tempo clandestino, per chi ci avesse ancora gusto. E furono molti. Era bionda, alta, stava sempre a lisciarsi le rughe e piegarsi i capelli. Chi non l'avesse conosciuta avrebbe detto, vedendolo uscire con quel passo dal cancello della scuola, che era una brava studentessa. Che cosa insegnasse, non so. I suoi ragazzi la salutavano gettando in aria il berretto e fischiando. I primi tempi, parlandole, io nascondevo le mani e coprivo la voce. Mi chiese subito perché non mi facevo americano. Perché non lo sono, brontolai, because I'm a wop. E lei rideva e mi disse che erano i dollari e il cervello che facevano l'americano. Which of them do you lack? Quale dei due che ti manca? Ho pensato sovente che razza di figli sarebbero potuti uscire da noi due, da quei suoi fianchi lisci e duri, da quel ventre biondo nutrito di latte e di sugo d'arancia e da me, dal mio sangue spesso. Venivamo tutte e due da chissà dove e l'unico modo per sapere chi fossimo, che cosa avessimo veramente nel sangue, era questo. Sarebbe bella, pensavo, se mio figlio somigliasse a mio padre, a mio nonno, e così mi vedessi davanti, finalmente, chi sono. Roseanne me l'avrebbe anche fatto un figlio, se accettavo di andare sulla costa. Ma io mi temmi, non volli. Con quella mamma e con me sarebbe stato un altro bastardo, un ragazzotto americano. Già allora sapevo che sarei ritornato. Roseanne, finché l'ebbi con me, non concluse niente. Certe domeniche della bella stagione andavamo alla costa in automobile e prendevamo il bagno. Lei passeggiava sulla spiaggia con dei sandali e delle sciarpe a colori, sorbiva la bibita in calzoncini nelle piscine, si distendeva sullo sdraio come se fosse nel mio letto. Io ridevo, non so bene di chi. Eppure mi piaceva quella donna, mi piaceva come il sapore dell'aria certe mattine, come toccare la frutta fresca sui banchi degli italiani nelle strade. Poi una sera mi disse che tornava dai suoi. Restai lì, perché mai l'avrei creduta capace di tanto. Stavo per chiederle quanto sarebbe stata via, ma lei, guardandosi le ginocchia, era seduta accanto a me nella macchina, mi disse che non dovevo dir niente, che era tutto deciso, che andava per sempre dai suoi. Le chiesi quando partiva. Anche domani, anytime. Riportandola alla pensione, le dissi che potevamo aggiustarla, sposarci. Mi lasciò parlare con un mezzo sorriso, guardandosi le ginocchia, corrugando la fronte. Ci ho pensato, disse con quella voce rauca. Non serve. Ho perduto. I've lost my battle. Invece non andò a casa. Tornò ancora alla costa. Ma non uscì mai sui giornali a colori. Mi scrisse mesi dopo una cartolina da Santa Monica chiedendomi dei soldi. Glieli mandai e non mi rispose. Non ne seppi più niente. Thank you. Di donne ne ho conosciute andando per il mondo, di bionde e di brune. Le ho cercate e ci ho speso dietro molti soldi. Adesso che non sono più giovane mi cercano loro, ma non importa. E ho capito che le figlie del Sor Matteo non erano poi le più belle. Forse Santina, ma non l'ho veduta grande. Avevano la bellezza della dalia, della rosa di Spagna, di quei fiori che crescono nei giardini sotto le piante da frutta. Ho anche capito che non erano in gamba, che col loro pianoforte, coi romanzi, col tè, coi parasoli, non sapevano farsi una vita, essere vere signore, dominare un uomo e una casa. Ci sono molte contadine in questa valle che sanno meglio dominarsi e comandare. Irene e Silvia non erano più contadine e non ancora vere signore. Ci stavano male, poverette. Ci sono morte. Io capii questa loro debolezza già al tempo di una delle prime vendemmie. Me ne accorsi, via, anche se non capivo ancora bene. Per tutta l'estate, dal cortile e dai beni, era bastato levar gli occhi e vedere il terrazzo, la vetrata, i coppi, per ricordarsi che le padrone erano loro, loro e la matrigna e la piccola, e che perfino il Sor Matteo non poteva entrare nella stanza senza pulirsi i piedi sul tappeto. Poi capitava di sentirle chiamarsi lassù, capitava di attaccare il cavallo per loro, di vederle uscire sulla porta a vetri e andarsene a spasso col parasole, così ben vestite che l'Emilia non poteva neanche criticarle. Certe mattine una di loro scendeva in cortile, passava in mezzo alle zappe, alle carrette, alle bestie e veniva in giardino a tagliare le rose. E qualche volta anche loro uscivano nei beni, sui sentieri, in scarpette, parlavano con la Serafina, col massaro, avevano paura dei manzi, portavano un bel cestino e raccoglievano l'uva luglienga. Una sera, dopo che avevamo ammucchiato i covoni del grano, la sera di San Giovanni c'erano i falò dappertutto, erano venute anche loro a prendere il fresco, a sentir cantare le ragazze. E poi tra noi, nella cucina, in mezzo ai filari, ne avevo sentite dir tante su di loro, che suonavano il piano, che leggevano i libri, che ricamavano i cuscini, che in chiesa avevano la placca sul banco. Ebbene, in quella vendemmia, nei giorni che noi altri preparavamo cavagni e bigonce e pulivamo la cantina e anche il Sor Matteo girava le vigne, in quei giorni si sentì dall'Emilia che tutta la casa era in rivoluzione, che Silvia sbatteva le porte e Irene si sedeva a tavola con gli occhi rossi e non mangiava. Io non capivo che cosa potessero avere che non fosse la vendemmia e l'allegria del raccolto, e pensare che tutto si faceva per loro, per riempire le cantine e le tasche del Sor Matteo, che era roba loro. L'Emilia ce lo disse una sera seduti sul trave. La questione del nido. Era successo che la vecchia, la contessa di Genova, tornata da 15 giorni al nido con nuore e nipoti dai bagni di mare, aveva fatto degli inviti a Canelli e alla stazione per una festa sotto i platani. E della mora, di loro due, della signora Elvira, si era dimenticata. Dimenticata o che l'avesse fatto apposta? Le tre donne non lasciavano più pace al Sor Matteo. L'Emilia diceva che in quella casa la meno incagnita era adesso Santina. «Non ho mica ammazzato nessuno», diceva l'Emilia. «Una risponde, l'altra salta, l'altra sbatte le porte. Se gli prude, si grattino». Poi venne la vendemmia e non ci pensai più. Ma bastò quel fatto ad aprirmi gli occhi. Anche Irene e Silvia erano gente come noi che maltrattata diventava cattiva, s'offendevano e ci soffrivano, desideravano delle cose che non avevano.